Che razza è l'europarlamentare? In un'intervista alle Figaro, Olivier, insegnante al Collège d'Europe a Bruges, divide i parlamentari europei in quattro categorie. I rompiscatole, quelli che vengono allontanati dal partito di appartenenza con un incarico di prestigio a Bruxelles, perché non rientrano nella costellazione politica del partito. Gli sconfitti da sistemare, quelli che hanno perso un'importante elezione a sindaco e non sono stati eletti al Parlamento nazionale, i grandi leader a fine carriera e i giovani in cerca di esperienza. Insomma, una popolazione politica di serie B, o sconosciuta o per una qualche ragione sconfitta. I problemi sono molti. Non esiste di fatto una classe politica europea costituita da partiti transnazionali, latori di politiche unitarie. Il Partito Popolare Europeo o il Partito Socialista Europeo sono aggregati scomposti, mentre la CDU in Germania, per esempio, sosteneva la necessità di scendere in guerra con gli USA, Chirac si faceva agguerrito sostenitore di una soluzione pacifica, mentre Berlusconi seguiva la linea di tradizionale neutralità italiana. I tre sono gli di punta dei partiti che nei rispettivi paesi rappresentano la politica del Partito Popolare Europeo. Il lavoro dell'eurodeputato, quindi, comincia tra le proprie fila. Bisogna prima mettere d'accordo chi sta dalla stessa parte e poi andare a combattere. Il secondo grande problema è la specificità dei molti problemi trattati. Quando si è arrivati al mercato unico tra l'87 e il 92, si è discusso di tutto, dallo scopino del gabinetto agli OGM, passando per le cinture di sicurezza e la regolamentazione dei gas inquinanti. Il parlamentare europeo è quindi costretto ad acquisire conoscenze che le politiche nazionali non esigono e soprattutto è costretto a capire l'impatto di una regolamentazione sui diversi paesi. Se i gas di scarico del diesel vengono regolamentati, le conseguenze per l'Olanda e il Belgio, che non hanno una produzione automobilistica, saranno ben diverse da quelle sull'economia di Italia, Francia, Germania o Repubblica Ceca. Comunque vadano le cose, poi, i parlamentari europei si devono piegare alle rispettive direttive di politica nazionale, discutere accanitamente di quote latte, di mandato internazionale d'arresto, di indipendenza della magistratura, delle nomine delle diverse commissioni. L'OLAF, per esempio, è la Commissione Antifrode dell'Unione Europea. I suoi membri vengono assunti per concorso, ma i candidati vengono nominati dagli esecutivi politici dei singoli paesi. All'epoca in cui Fassino era ministro di Grazia e Giustizia, ne ha proposto tre. Poi è arrivato Castelli, che li avrebbe voluti revocare, ma nel frattempo i tre avevano vinto il concorso ed erano pronti a iniziare il loro mandato a Bruxelles. È andata a finire con lotte al coltello sotto coperta, due su tre che spontaneamente rinunciano all'incarico, il terzo che viene nominato direttamente dal presidente tedesco dell'Olaf. Poi ci sono i grandi vecchi, Giscard d'Estaing per esempio, ex presidente della Repubblica Francese, ha lavorato per 4 anni all'elaborazione della Costituzione Europea, ma i nomi sono tanti, Pedro Solbes, l'Italia candida Gianni De Michelis, questi personaggi hanno il compito preciso di capire le situazioni internazionali, far valere i contatti e l'esperienza, fare da chioccia ai novellini. In generale, comunque, l'agenda dei parlamentari europei è 10 volte più piena di quella dei parlamentari nazionali, anche se poi spesso, ma questo anche in patria, poi molti brillano per assenteismo. L'Italia e la Francia sono i soli paesi europei che sembrano ignorare che il Parlamento europeo ha un peso uguale o superiore rispetto a quello nazionale. Il progetto di Costituzione europea li situa sullo stesso piano. Dal 1999 su www.europarliament.net vengono pubblicate le statistiche di presenza degli europarlamentari alle sedute plenarie. L'Italia in questa speciale classifica occupa l'ultimo posto, la Francia il penultimo. I Verdi italiani sono con il 59% l'ultimo partito, mentre con il 16,6% di presenze alle riunioni plenarie del Parlamento europeo, il nostro eurodeputato Marcello Dell'Utri occupa l'ultimo posto della classifica individuale. Enrico Boselli con il 32% di presenze il quart'ultimo, su di un totale di 625 parlamentari. Per onestà bisogna aggiungere che questa classifica rileva solo chi firma il libro delle presenze, riferendosi quindi unicamente a chi si trova sul posto giorno per giorno. La partecipazione attiva alla discussione politica è altra cosa. Di mezzo ci si mette anche il cresciuto disinteresse degli elettori per le elezioni europee. Questi vengono spinti dai partiti nazionali a votare più per le conseguenze politiche che i risultati delle europee ripercuoteranno in patria che per l'effettiva necessità di una forte rappresentanza politica del paese in Europa. Paradossalmente questa debolezza viene raccolta dai partiti minori e soprattutto da quelli anti-europeisti. Haider e Le Pen hanno imperniato la loro campagna sul forte impegno politico in favore dei rispettivi paesi, stessa cosa aveva fatto la Lega quando non era al governo. Quello che si osserva comunque è che in generale si tendono a coltivare gli interessi dei singoli paesi al cospetto della comunità e non quelli dell'Unione Europea nel mondo. Tolta l'alleanza tra Francia e Germania, a cui a volte si aggiunge l'Inghilterra, non esistono altre alleanze di rilievo. L'Italia, per esempio, non si è alleata con la Polonia, con la Spagna o con la Grecia, per quanto considerazioni geopolitiche avrebbero potuto consigliarlo, perché subisce molto la concorrenza sul piano agricolo e di sovvenzioni alle zone più povere dell'Europa. Così tutti combattono a suon di veti e alzate di scudi una piccola battaglia protezionistica in favore degli interessi dei grandi elettori.